init music. Init for you. Init your music for you. Contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Suono. Music for you, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. Favato, buonasera. Buonasera Terzaglior, è bello rivederti. Ci siamo accorti che è iniziata la trasmissione? Sì, siamo come la piccola fiammiferaia, siamo all'ultimo cerino. Nel nostro caso è un Minerva. Elogio al Minerva in quanto cerino d'eccellenza fino ai tardi 90. Dopo arriva l'accendino, c'era già prima, ma prende piede. E a quel punto il Minerva cade nel dimenticatoio. E se volete farci la carità e tirarci dei soldi, fatelo con la fionda. Oppure tirateci appunto dei Minerva, accendete prima la scatola perché riesce a accendersi un po' tutta e è sempre un bel momento. Ben ritrovati MFY in streaming, fa voto, ricorda sempre. Su radiosherwood.it. Neanche, sbagli pure l'indirizzo, è sherwood.it, dovevamo ricordarcelo, fissatelo a mente la seconda settimana. Alla terza secondo me ci saranno netti progressi delle nostre teste. Mentre siamo... Cerchiamo di abbandonare il 97.8 un po' alla volta. Siamo nelle onde medie, fluttuiamo, non so, come Marisa Laurito sui fusili e la Voiello prima dello Slim Fast sui 102.2 di Radio San Donà. Bella coppiata, doppia coppia. Mi ricorda un po' il compianto Umberto Smaila ai tempi di Colpo Grosso. Ma quanto bello! E adesso mi resta solo, che cosa ne so, Corrado Fumagalli con Sexy Bar. Non è la stessa cosa. No, anche perché era molto meno volgare, secondo me, Smaila. Sì, è vero. Era anche un po' la giacchetta bianca. Era anche un po' lo sponsor Panto. C'era anche lo sponsor di Panto, prima che si sfrantasse in elicottero in laguna. E Panto, e fate sta risata che domani mattina magari te svegli sotto un cipresso, come si suol dire. Esatto, tanti rimpiangono il suo lupetto nero, personalmente no. I serramenti continuano a chiudere le porte di mezzo nord-est. Tu sì. C'hai casa chiusa a Panto? Io, beh, ho casa chiusa sicuramente. Sì, hai case chiuse in giro per l'Europa? Sì, le gestisco io, un po' un Ikea della casa chiusa. Bravo, vedo che hai colto nel segno. Hai detto una parola e la parola magica è Ikea e non è Umberto Smaila, ovviamente. Esatto, non è neanche ragazza cin-cin, vorrei dire. Cin-cin, l'ananas non era per niente male, anche la kiwi non era male. Anche la fragola non era male. Insomma, le abbiamo salvate tutte. Hai detto Ikea e hai detto bene, il collegamento c'è, la freccettina la disegno io, al resto pensaci tu, fa voto, perché c'è un collegamento con l'Ikea. Allora, questa sera abbiamo un ospite telefonico, ancora una volta Meucci ci viene in soccorso e ci regala un collegamento con lo Stato Sociale. Nota band di dove? Nota band di casa Garmincia Records, che abbiamo ospitato qualche settimana fa e che ha licenziato recentemente questo Amore ai tempi dell'Ikea, titolo bellissimo, perché voi dovete sapere che il sogno anche un po' erotico mio e di Terzariol è nasconderci... Forse tuo, non prendermi nel mezzo, che cosa che... Ma aspetta che lo dico e ti troverai d'accordo. Sì, troviamoci. È spiare i clienti Ikea nascosti nelle palle dell'area bambini. È una bella cosa, vero? Veramente una bella cosa. Io non volevo descrivere questo mio hobby, però la domenica, quando non so cosa fare e la messa è finita, andate in pace. Mi metto con gli occhi sotto il livello medio delle palline della zona bambini e sto là a osservare. A questo punto noi chiederemo cose su cose allo Stato Sociale, ma prima mettiamo una canzone. Mettiamo una canzone, qui stiamo tutti d'accordo. È un party funebre. Sì. Sono i Funeral Party e infatti come si chiama la traccia? Iniziale? No, si chiama finale. Esatto. La traccia è finale. Funeral Party, un gruppetto che ne sa, bisogna dire, ricordano un po' gli Arcade Fire e quel tipo di musica, ad esse i Frightened Rabbit. Ma... e questo tipo di genere, sai, diciamo. Che non avevano neanche degli strumenti, hanno cominciato prendendoli in affitto da altri. pensa che... un po' come noi che ci siamo inculati le cuffie, cominciamo a portarti a casa le cose. Infatti ringraziamo la macelleria Rossi qui di San Donato di Piave per le cuffie, le cuffie con i quali insacchi la salamella. Esatto. Bene, io direi che possiamo andare a ascoltarci il Funeral Party con finale. Non sapete nulla di più del titolo della canzone rispetto a quanto ho detto Favotto. Era tutto un materiale inutile per la vostra educazione musicale. Sì, però se vi piacciono gli Arcade Fire, questa vi potrebbe piacere. Radio Sherwood in streaming su www.sherwood.it. Ti vedo parecchio parecchio in consulto. Stavo dicendo 97.8, ma ci è saltata la banda, come sapete. Radio San Donà 102.2. siamo rientrati in studio, l'avevamo promessa la telefonica e lo stato sociale nella figura di Lodo si palesa al telefono. Lodo, dai. Buonasera Lodo. Buonasera. Sono una figura di... Sono una figura di Lodo. Sei una figura di Lodo, un po' antropomorfa. Un'interfaccia di Lodo. Che comunque Lodo in messicano vuol dire fango, quindi le associazioni partono proprio facili alla velocità della luce. In ogni caso, noi stavamo dicendo, a microfoni abbassati, come si suol dire, che Lodo non beve caffè. Tu dici, ma perché dobbiamo incominciare un'intervista così? Parliamone. È un dramma. No, non è un dramma. Io c'ho questa cosa di non bere mai caffè e di svegliarmi con grande fatica e di addormentarmi con grande entusiasmo. Ma tu quindi, musicista, bevi birre pure la mattina, bevi birre la pomeriggio, la sera? Ma io non sono particolarmente hardcore. Diciamo che i miei compari sono più etilisti di me in tante cose. Però comunque ci sono alcune passioni mai soffite di giovinezza, il gin lemon, il vino quello buono, che poi qual è quello cattivo, insomma. Sì, non si è mai capito. Ormai, il tavernello. No, ormai anche il tavernello è tra quelli buoni. Infatti sì, dai, perché tagliarlo fuori, povero? Una minoranza etnica e va trattato con grande suadenza. Tra l'altro, all'IKEA danno vino, Favotto? Sai che ci sono tutte le specialità? Sì, all'IKEA danno vino. Danno anche il vino? Sì. Perché io mi ricordo le renghe. E i biscotti, però sul vino ero dubbioso. No, c'è. Danno il vino svedese, il vino di un paese dove la gente beve vino e poi si suicida, una cosa inspiegabile. Sì, Emil Durkheim, nota sociologa, dice sì, là si ammazzano di più perché bevono vino de merda, come si suol dire. Sì, e lo dice soprattutto con questo accento. Esatto, notoriamente francese. È una che ha studiato tanti anni, ma poi alla fine non si può dire. Studia che raffica. Studia raffica. E poi ha trovato giustizia sul frontale di uno Scania. Comunque, benvenuto Lodo. Se te ne sei accorto, è una trasmissione radio e non una cialtronata telefonica. Non hanno preso il tuo cellulare e hanno composto il numero a caso della Bofrost oppure della DeLonghi oppure della Mondial Casa, che ti torturano anche a Natale. Ma avrei voglia di citare a memoria il mio numero, ma non me lo ricordo. No, lascia stare. Ma io avrei una domanda in proposito. Come fa il tuo numero avere solo sei cifre? È un numero di lavoro di mio padre degli anni 90, che allora i numeri di lavoro secondo me avevano una cifra in meno. Però le solite cose italiane, mi viene da dire. Sì, era un girone all'italiana, usciva un numero alla volta. Chi rimaneva con tre numeri poteva accedere alle semifinali. Poi playoff e nel caso golden goal. Esatto. Tra l'altro, cioè, il numero di mio padre che di qua, pipì, pepe. Poi ti chiedono, ma di chi è l'appartamento in cui vivi? Non lo so, mi ci sono trovato dentro. Però ogni tanto passa un cinese con dei sacchi neri. Sì, l'affitto non lo pago io, le bollette non mi arrivano, però qua si sta bene. Sacchi neri con dentro le pagine gialle. Esatto. A partire dal 71 arrivare all'87. Vedo che lo stato sociale come progetto è ben affrontato in questa intervista e direi di svoltare. Sì. Allora, partiamo con una domanda di un'originalità fantastica. Perché questo nome, lo stato sociale? Spiegaci tutto. Ah, lo stato sociale. Allora, lo stato sociale nasce al primo concerto come Thomas Doll, perché il primo nome è stato Thomas Doll. Thomas Doll è stato l'unico giocatore della Germania dell'Est ad aver giocato anche nella nazionale della Germania unificata. Dopodiché, a partire da un nostro pezzo che si chiama Giro di Vite, che non facciamo più da chissà quanto tempo, che il cui ritornello citava fidati di noi, stato sociale, flessibilità, fidati di noi, abbiamo deciso di chiamarci stato sociale perché crediamo nella musica della mutua. Cioè, il nostro obiettivo finale non è vendere i dischi, non è far pagare i concerti, essere assolutamente gratuiti, scaricare il nostro EP dal 740 ed essere spesati dalle tasse. Meraviglioso, c'è molto welfare in tutto questo. Sì, esatto. Detraeteci. È un bene di tutto, è un bene di tutto e un bene di tutti. Il vostro progetto, l'ultimo, Amore ai tempi dell'IKEA, da dove mi nasce? Allora, uno dei compari, Alberto, che non è qua presente, ma è presente nei nostri cuori, anche nei vostri cuori. Assolutamente. Sì, sì, assolutamente. Cioè, ha un ventricolo che si chiama Alberto. Ha lavorato all'IKEA per parecchio tempo. In realtà noi pezzi li scriviamo in tre, nel senso che o nasce da uno di noi tre fondatori un pezzo, oppure lo completiamo attraverso stesure che passano di mano in mano. Tutti i pezzi scritti da Albi dello Stato Sociale sono stati scritti durante la permanenza all'IKEA, che comunque è un lavoro che andrebbe raccontato da uno che ne sa. Andrebbe assolutamente raccontato. Io vorrei più che altro sapere se li trattano bene, se li trattano male. Che... No, li trattano bene, li trattano bene. Li trattano benissimo, noi siamo pagati dall'IKEA e facciamo questo piccolo EP per fare pubblicità all'IKEA e noi speriamo di finire il nostro tour andando finalmente a lavorare come soprintendente all'IKEA. Potreste quindi chiedere una data qualsiasi in uno store tra i tanti? Non possiamo anticiparti niente, però... Però vi esibite già con delle tutine blu, vero? No, è successo un paio di volte e in un paio di foto abbastanza raffazzonate che funzionavano sul primo tour, quello di Welfare Pop del primo EP. Però sì, comunque Amore ai tempi dell'IKEA narra una storia vera, una storia vera vissuta. Perché hai detto una storia vera? Ti ho sentito anche ridere. No, perché io non è una storia che riguarda me, però so benissimo che riguarda. E mi fa molto ridere pensare a questo incontro notturno con questa ragazza che ti porta a casa sua, questa ragazza neanche particolarmente sua dente, ti offre del fumo, ti fa vedere un sacco, una collezione di scatole IKEA, pensavo le farfalle, riesce a approfittarsi di te e poi racconta di grandi sentimenti che mai si realizzeranno. E nel mentre una cassapanca si monta da sola. Esatto. E sotto la cassapanca la capra. La capra potaccia, come si suol dire. La capra è comunque abbastanza sola, perché se la cassapanca si sta già montando da sé. Vabbè. Da quanto mi suonate voi? Vuoi parlarci dei tuoi passati, dei tuoi futuri, degli attuali presenti? No, non ho capito la domanda, sai. Da quanto suonate? Come mi trovate in giro? Tutto bene a casa? No, in giro tutto bene, a casa salutiamo che ci vogliono bene, suoniamo da un anno e mezzo circa, abbiamo fatto la settimana scorsa, giovedì 5 maggio all'Aquila, abbiamo fatto la data numero 100. All'Aquila? Sì, esatto. In zona rossa piena? A ridosso della zona rossa, centro sociale Case Matte. Ci piace molto in realtà girare per arce e centri sociali, oltre che per locali indie che bene o male sbeffeggiamo nei nostri pezzi un po' più conosciuti. Diciamo che Alberto e l'altro Alberto, detto Bebo, sono degli alfieri dell'elettronica da un po' di tempo, fanno i DJ in giro per vari parties e hanno progetti loro molto molto cassadrittosi. Io faccio l'attore professionista della vita, mi sono diplomato in accademia e sono stato coinvolto perché siamo molto amici e per la mia peculiare capacità di trasformare qualsiasi discorso in una pop song. e quindi ci siamo ritrovati così, poi abbiamo allargato la formazione, adesso andiamo in giro con Carota e Enrico Roberto, che sono un synth virus molto analogico, molto grassone, una polistrumentista Laura Agnusei che suona sax e altri strumenti vari e eventuali come il metallofono, la chitarra e il basso, e un violoncellista amico mio caro da tanto tempo che è proprio conservatoriale, lui è l'unico che sa suonare davvero. Insomma, di 50 euro che vi danno per quando suonate non vi resta niente, state in 27. No, ma è per quello che svaligiamo i bar costantemente. Esatto. Queste rapine di autofinanziamento, parliamone. Come procede la collaborazione con Garrincha? Sì, e come è nata, tra l'altro? Giusto per farci i cazzi vostri un pochetto. Ma guarda, noi siamo stati abbastanza fortunati perché col primo EP abbiamo fatto 90 date e siamo andati ovunque. Quindi si è creato 70. Un certo interesse attorno a questa cosa e ci hanno rincorso tutta una serie di grandi venditori di fumo che promettevano primi posti in classifiche di hit parade inesistenti. Tanti arrostini. Tanti. E vi facevano vedere scatole IKEA. Facevano anche il gioco alle tre scatolette. Guarda, in una c'è il contratto sotto, vediamo se lo trovi. E immagino andasse così. E insomma, sì, no, ma veramente venditori di fumo importanti, di quelli che ti mettevano sotto contratto e si prendevano tutti i diritti loro, si prendevano la metà dei diritti. Cioè, invece aver scoperto una persona come Johnny, Matteo di Garrincha Dischi, che ci ha preso proprio bene subito dal punto di vista umano, ha parlato chiaramente nelle logiche evidenti e inevitabili di una produzione indipendente, non ha parlato di soldi, ha parlato di progetti, insomma ci siamo trovati molto bene. Poi dentro il disco ha fatto suonare la gente come Manzan, come Pintronic, Francesco Brini, eccetera, eccetera, che sa suonare a differenza di noi, e quindi il disco è venuto anche bene, dai, su, carino. Tra l'altro io ho letto una vostra recensione dove vi paragonano a Rino Gaetano, non sto scherzando. Da morto, tra l'altro. Sai, forse perché siamo morti anche noi e lo Stato Sociale è una band che parla della morte. Vi prego, spiegateci comunque il titolo, anzi spiegami il titolo, Anche la Stasi aveva un cuore, che poi ce l'andiamo ad ascoltare, che è la traccia scelta. È la nostra scelta della serata. La seconda tu non la sentirai perché ti avremmo già mollato il telefono in faccia, proprio il telefono in sé. È un po', la nostra gestione ricorda un po' la Raffai ai tempi di Chi l'ha visto. Esatto. L'altra traccia, per tua informazione, è Sei la 626, la famosa leggina. La Beghelli per tutti. 626? Sì, mettiamo quella lì. Mi ascolterò volentieri la puntata perché non la sentivo veramente dagli anni 90. E pensa che la fai tu. E ci pensiamo noi, non preoccuparti. E invece torniamo a quell'altra, vuoi spiegarcela? Ah, Anche la Stasi aveva un cuore, è un pezzo scritto da Alberto Guidetti Bebo, uno degli altri due. E il suo bisogno comunque di trovare delle strade alternative nel vivere i rapporti lo porta a scrivere queste cose. Anche la Stasi aveva un cuore è un racconto di uno spionaggio in Germania dell'Est. Io ti spio, sono della Stasi, ad un certo punto mi innamoro di te, vediamo cosa succede. Vite sospese, i testi di Bebo sono sempre quelli più profondi, poetici, lirici e ancestrali. Poi ci pensiamo io e Albi a parlare di stronzate. A parlare di superficialità. Esatto. Un'ultima cosa, dacci tutti estremi, a mali estremi, estremi rimedi, dacci tutti gli estremi per i quali vi possono raccattare in strada e farvi suonare in un posto, il vostro indirizzo internet, e se hai delle date del vostro tour, diccele che noi arriviamo. Nostro tour abbiamo parecchie date, giriamo molto. Mi viene in mente che questa settimana siamo venerdì il 13 a Napoli, a Caracol Casa del Popolo, il 14 Arte Noise Roma, poi la settimana prossima abbiamo una data che piazziamo in ogni tour, il 20 su Chat Roulette, e altre cose che stanno venendo fuori proprio in questi giorni. 28 maggio a Parma, poi di nuovo 10 giugno a Lecce a Radeo Caffè del Teatro, 11 giugno Geco San Benedetto del Tronto. Madonna, poi non ve le racconto perché sono tantissime. C'è veramente di tutto. Dove le possiamo leggere per intero? Allora, le potete leggere facilmente su Facebook andandoci a cercare. C'è anche Amore ai tempi dell'Ikea Tour, che è un evento che racchiude tutte quante le date. Oppure con più fatica su MySpace, che noi cominciamo a non sopportare, ci rapportiamo sempre di meno, quindi le date le ho scritte con grande fatica ieri l'altro, a metà del tour più o meno, e penso che continueremo a scriverle in ogni caso. E hai scritto solo quelle vecchie? No, che si sono cancellate automaticamente. È una bruttura che MySpace stia andando a remengo, a me dispiace un sacco, si trovava così bene. Lele, non so come dirtelo, ma noi non ce l'abbiamo. È un aggiornamento che l'ha reso impraticabile. Poi sta connessione con Facebook, ovviamente si fa mal sopportare, secondo me. Vabbè, adesso non stiamo a parlare anche... È la cosa inevitabilmente più pratica. Più pratica, sì. C'è praticità, ma anche tanto, tanto odio da parte mia. Vabbè, questo è perché i sentimenti non muoiono mai. Mai. Lodo, noi ti ringraziamo. Grazie a voi, rega, veramente. Ci piaci molto. Telefonicamente ci piaci molto. Se vienici a trovare, facciamo, ci piacerai ancora di più. Con piccioni viaggiatori. Esatto. Anche la Stasi aveva un cuore su Sherwood. Vi veniamo a trovare a Radio Sherwood. Sì, passate. Venite per il festival, noi vi aspettiamo a braccia aperte e portiamo delle birre eventualmente, del caffè per te se del vuoi. Del caffè per te. Ah, sì, per prendermi per il culo. Va bene. Su Sherwood.it e Radio San Donà 102.2. Anche la Stasi aveva un cuore dello Stato Sociale. We'll be right back. due gradi. Non suggerisco a gran voce il fare, il non fare, la non azione che preferisco. Gioco a rimbalzare idee esterne, l'ovvio e la stasi in cui vesto. Sono la gente che segna i tuoi passi, registro i tuoi orari. Abito qua, convivo con te. Stasi aveva un cuore dello Stato Sociale. Siamo rientrati in studio Music for Youth. Quanta bellezza fa Votto. Anche Stasi aveva un cuore e le sue vittime pure. E usando un vocativo, Stasi su, mi raccomando, non buttarti, non andarmi in depre, come si suol dire. Esatto. Ringraziamo lo Stato Sociale, ci è piaciuto Lodo Alfano, Francesca Lodo, altissimo esempio di gnocca. Te siamo le Lodi di Lodo. Lodi, Lodi e Lodi, come diceva quel famoso presentatore che non mi ricordo nemmeno più. L'Eco Lodi, perché sono vicine. E queste cose le raccontavamo alle elementari, poi prendevamo le manine, quelle appiccicatrici, le patatine, le buttavi su per i muri. E rimaneva quell'aloncino giallo che ha sempre fatto schifo, soprattutto alle mamme. Che a te piace tanto e che fa sempre primavera o molto esame delle urine. E anche lì torna l'Eco e Lodi, perché vabbè, basta per cortesia. Ma tu dici, mi vuoi rimandare a questi strani doppi sensi, alle nudità? E no, infatti, in realtà non volevo Eco, cose del genere, e io alle nudità ti rimando. Nudità eppure famose. Eh sì, Naked and Famous, prossima canzone ospitata da questo allegrissimo programma che vi sta tenendo compagnia questa sera. Qua, se vedete un feretro passare, attaccate la radio, noi siamo una buona base per l'accompagnamento. Due crisantemi seduti su un divano a grandezza naturale, noi due, non i Naked and Famous, che invece sono una band propriamente neozelandese, esattamente, che ci permette di fare una wave svecchiata neanche brutta. Io vorrei dirti che il titolo dell'album è Passive Me, Aggressive You, questo denota che ci sono dei rapporti. Esatto. E che io lo sto a pia, come si suol dire. Esatto, invece io tendo a essere più aggressivo e qui il pensiero corre a cotanta insalata che si può usare per attività erotiche di vario genere. Insalata? Detto, sì. Ma vedete, te in quella zona dove abiti c'hai dei vizi un po' strani. Quella zona dove abito è 4 km da casa tua. Poi da quando ti è arrivato sto cagnolino piccolo in casa sei un po' cambiato, non ti vedo più il favotto di una volta. Vorrei salutare il mio Baetta, grazie. Come si chiama? Baetta, ma è un nome provvisorio perché al momento in casa ognuno lo chiama un po' come vuole. C'è dell'anarchia nominativa. C'è anche del sangue giovane, Young Blood dei Naked and Famous. Vorrei dire che questo singolo è stato, io l'ho scoperto in un blog che leggo, ma è stato per quasi un mese tra i più ascoltati di Hive Machine nella top 10, per cui era anche un motivo per farvelo sentire. E andiamocelo a sentire. Favotto, grazie per averceli portati. Dopo vediamo se i ringraziamenti li confermiamo. Loro non ringraziano me in realtà, ma no, comunque. I Naked and Famous non ringraziano mai. Perché sono già nudi. Sono uomini che non devono chiedere. Mai. We require certain skills. Eh sì. Dai, alla fine ti ringraziamo, Foto. Male non era. No, no, era, è carina questa, poi questa voce femminile che tanto fa. Tanto fa, infatti... Ma tanto fa la gatta al lardo. Che ci lascia la zampaccia. Tra l'altro sai che io sono un po' razzista nei confronti delle donne. Ma nonostante tutto, questa sera mi sono sforzato e poi più tardi noterai lo sforzo. Ah sì, lo noto già guardando in scaletta, devo dire. Però tu, radioascoltatore sul filo del rasoio, dici, ma Lele chissà che cazzo ha portato. Stai là, stai sì, fermo. Stai fermo, non agitarti. Ricordati le statue di cera. Non agitarti, perché poi è estate, ti viene male sotto le braccia. E sicuramente tu, ascoltatore medio, hai una camicia celeste. E hai una sudorazione che non è media. No, ricorda quella di un Doberman, perché è risaputo che i Doberman... La bava no, di un Doberman, sì, soprattutto. Cani che sbavano il 15 di agosto, sbavano pure ascoltando i Fisher Spooner. Fisher Spooner, finalmente li ospitiamo, beh, finalmente, in realtà. Fisher Spooner, è cambiato qualcosa il fatto che noi non li abbiamo messi finora? No, credo di no. Soprattutto per loro non è cambiato niente. E io ti ricordo, anzi loro ci ricordano, che se io e te facessimo una maratona di 14 partecipanti, noi arriveremo quindicesimi. Sì. Infatti la canzone si chiama The 15th. Esatto. Fisher Spooner, allora, coordinate musicali, partiamo così. Elettronica pop, ricordano i Leditron che abbiamo messo qualche settimana fa. Qui sì, canta un uomo. Qui canta un uomo, cantano dal 98, ricordano pure un po' i Depeche. Per certi versi sì, fanno successo con questa che è una cover, fra l'altro. Tu dici, che nome è Fisher Spooner? Cosa mi rappresenta? Radioascoltatore, non mi rappresenta assolutamente niente. È l'unione di due cognomi, sti maledetti Fiana Mignotta, come possiamo chiamarli. Warren e Casey. Io spero che Warren e Casey ci stiano ascoltando in questo momento. E stiano facendo manovra Casey in grava con un bilico che ci entrerà dalla finestra. Esatto. Loro sono bravetti, io lo dico perché girano per casa, mi fanno Lele, ascolta qua il pezzo nuovo. Io faccio sì, no, è tempo di licenziare, vedrai che sfondi. Soprattutto sfondi porte aperte. Soprattutto con quel bilico che ancora stai facendo manovra. Esatto, io direi che possiamo andare ad ascoltarceli. Tra l'altro, volete un qualcosa di molto molto elettronico? No, no, esiste no. Un remix di questa canzone fatta dai Bloody Beetroots che io vi consiglio di ascoltare. So io verso i Bloody Beetroots una sorta di pregiudizio. Io purtroppo rispetto alla musica da discoteca in genere, e non me ne vogliano tutti gli ascoltatori che... Notevolmente discotecari. E, cioè, purtroppo io accetto, apprezzo i miei limiti, apprezzo, no, accetto i miei limiti. Comunque, questo remix vale la pena. Sai che io sto cominciando ad avere una soglia di sopportazione bassissima nei confronti di certi locali? Adesso non mettiamoci a fare i discorsi nostri che possiamo fare al bar, basta, volevo solo darti queste informazioni. Ma se certi, per certi locali intendi la ferramenta che abbiamo qui sotto, no, è no, un conto. No, dico, che ne so, discoteca al Molo, cioè faccio un po' fatica a entrare. Una volta potevo entrare, va bene, ok. Adesso solo da collassato. Bene, è molto interessante saperlo. Un'informazione che non serve a niente a nessuno. Scende dell'equo silenzio e andiamo a sentire i Fisher Spooner. Questa è Music for Youth. Yeah. Questi erano i Fisher Spooner con The 15th, la quindicesima, figurati fa voto, noi in... La nostra dovrebbe essere la seconda e molto spesso, ma manco quella. Coppa A proprio. E sai bene a che cosa mi riferisco. Sì, sì, una seconda Coppa A, una prima Coppa C. Io vorrei sapere che taglia invece ha la cantante, ed ecco qui il passo che ti avevo fatto, perché c'è del razzismo nei miei ascolti musicali. Del sessismo più che sia. Sì, sì, una misoginia molto grave, aria di misoginia, aria greve, perché io non ascolto molto gruppi con cantanti. Donne con cantantesse, con le famose cantantesse, e invece qui il favotto mi viene sorpreso. Sì, sì, no, conosco il gruppo. Sono statunitensi, gli Slake Bells, due tra i tanti due che sì, possono licenziare un album. Esatto, avevamo avuto gli XX, per dire, per esempio, e abbiamo questi due che mi saltano fuori. Uno che fa il musicista proprio di professione, lo faceva anche su tracce carine. Questa invece che fa panini nella vita, faceva panini con mortazza, e inoltre salta fuori da una band molto commerciale di Tosatiole. Si uniscono e danno vita agli Slake Bells. Si uniscono anche biblicamente, a mio parere. Biblicamente, e forse anche in qualche altra maniera, però non sono affari nostri né indagare nelle vite degli altri, per cortesia, proprio perché vite degli altri, non nutriti di facile gossip. E questo ci rimanda a una citazione della Raffai di qualche minuto or sono. Insomma, questi minuto qui... Orsono non ha senso. Vabbè. Minuto Orsoni, salutiamo il sindaco di Venezia. Ciao Orsoni. Ciao Orsoni, bello. È sempre bello sapere che ci segui quando con la cuffietta, mentre tutti propongono emendamenti a caso in consiglio comunale, e tutti distrai e buttano su appalti per ospedali che mai ci saranno. Esatto, spero che il pan del Doge venga legalizzato e dato come il fluoro nelle scuole quando si era bambini. Legalizzazione, come dicevano gli scappè. Noi ci ascoltiamo gli Slake Bells con Real Real. Maschio e film, mi sono venuti in mente pure i The Kills, che non abbiamo mai messo. Una volta o l'altra sarà pure ora, no? Sì. Have a heart, have a heart. 16666 and I know the part. You are the river flow and we can never know. We're just the weatherman, you make the wind blow. Keep thinking about every straight face, yes. Wonder what your boyfriend thinks about your braces. What about them? I'm all about them. Six sets straight A's, cut them in the bathroom. So this is it then. Real Real degli Slag Bells, siamo rientrati in Music for Youth su Sherwood.it e Radio San Donà 102.2, i contatti 0421 56093, chiamateci per offenderci, 0421 56094, lettere minatorie via fax, musicforyouth.wordpress.com, il blog dal quale scaricare tutte le nostre puntate in podcast o ascoltarvele in streaming nei momenti migliori della vostra vita di bagno. Nella solitudine del vostro bidet. La solitudine, i numeri primi, forse anche secondi. Cioè, ormai siamo ai contorni. Un saluto a Corrado che ci ascolta. Mi manca dall'oltretomba, a me manca tantissimo. Perché non fanno più trasmissioni di sto genere? Tu, il punto è l'inverso, ossia tu non manchi a Corrado. Io non manco a Corrado e devo finire questa visione egocentrica della vita. Avevamo promesso una seconda traccia. Sì. A Lodo. Sì, a Alfano. A Lodo Alfano. Lodo, ti avevamo promesso una seconda traccia che ti salva da tutti i tuoi processi incombenti. E ti salva la vita, Beghelli. Bravissimo, Favotto. È una legge salvavita, è uno scudo, però è uno scudo antinfortunistica. La traccia si chiama 6, la 626, la famosa Beghelli. Esatto, e viene dal lavoro che ha preceduto questo L'amore ai tempi dell'IKEA. Si tratta di Welfare Pop, album di esordio dello Stato Sociale e secondo noi una prova neanche da poco. Se ne parla gran bene, d'altronde ha portato più di 90 date, quell'EP, butta via, cioè io e te 90 cosa? La morte fa 90, la morchia fa 90. 90 date molto probabilmente, no, non le avremo mai. Non le avremo proprio mai. 6, la 626 dello Stato Sociale. beghellone mio, caro Favotto. Ha detto Treviso, eh? Ha detto Treviso, con Prevena Spiaia. Allora, siamo rientrati dal comune satellite di San Donà, Sherwood batte cassa, salutiamo Padova, non salutiamo la provincia di Treviso. No, ma poverina la provincia di Treviso, continuate a mangiare il vostro radicchio. E basta, e la fermatevi, vi giuro che già siete saliti di categoria e sono state in C2, nell'ex C2, e invece ne sanno una, sta a marcire ai piani bassi, si gioca i playoff forse col Venezia, cioè non ne usciremo mai vivi, Favotto, non usciremo mai vivi da quel campo. E tutto perché? Perché ha vinto il Treviso. Io comunque ricordo ancora dei tempi bellissimi in cui a San Donà è venuta il Venezia in trasferta con un giocatore, Moassir Bastostuta, un giocatore bellissimo che poi salì alla ribalta delle cronache per essere l'unico a non aver capito che il Venezia si stava vendendo una partita. Ci ha messo cuore però, Favotto. Anche Cotica. Ci ha messo gran cuore, anche come la Stasi ci aveva messo il cuore, il pezzo dello Stato Sociale che abbiamo ascoltato. Anche Stasi ci aveva messo il cuore quella volta. Ricordati comunque che dopo che la partita è stata venduta, c'è chi ha festeggiato con Mortaretti. Sì. Nella distanza c'era chi invece, e tra l'altro nella distanza c'era Raschi, uno del gruppo che adesso andiamo a presentare, ha detto: questo rumore di fuochi di artificio mi può ispirare. Tutto questo si svolge a Austin, in Texas. Uno dei posti famosi per la concentrazione di armadilli. E lo dice il National Geographic, non lo dico io. E hanno dato vita a che cosa? Agli Explosion in the Sky. Explosion in the Sky, un gruppo che fa post-rock in sostanza e che a me e anche al qui presente Terzariol piace molto. Piace. Il riferimento principale sono i Mogwai, sì, secondo me. Che con Mr. Beast, quale grande album. Ricordiamo l'ultimo licenziato, Hardcore Will Never Die, You Will. Gran titolo, veramente. E anche un augurio a quello che ci facciamo. Esatto, anche noi dedichiamoci una Beghelli, ma dedichiamocela sulla schiena. Gli Explosion in the Sky hanno rilasciato il nuovo album qui, perché Favotto mi fa: guarda, è uscito un nuovo singolo, mettiamolo. E dico: bravo Favotto, mettiamolo. A noi piaceva tutto quello prima. Sì, con titoli veramente lunghissime. Those who tell the truth shall die. E ce n'era pure un altro che si chiama, aspetta che te lo recupero. Era stato licenziato sulle 300 copie e poi ributtato fuori, How Strange Innocence. E tu ce l'hai autografato a casa e appeso nella toilette. Tra l'altro poi bisogna dire che anche le canzoni che loro ci propongono in quest'album iniziano a avere un minutaggio decente. Prima si spazia dagli eleganti 7 ai sempli plutocratici 9 minuti, il che non facilita le cose nella radiofonia moderna. Fortunatamente i nostri 60 minuti sono in scadenza netta, tempo di mettere l'ultima traccia agli Explosion in the Sky, che si chiama Trembling Hands, di salutare Favotto, che sempre mi accompagna e che non ce la fa più. Ciao Terzariol. No, ce la faccio ancora. Adesso accenderò l'ultimo fiammifero con un altro finale circolare pascoliano. Dai Favotto, Trembling Hands, gli Explosion in the Sky, questa è Music for You.